Storiacce di Raffaella Calandra. Ora per la prima volta c'è una speranza. 25 anni dopo, quel 10 aprile 1991, ora per la prima volta il Moby Prince potrebbe uscire davvero dalla nuvola di nebbia che non c'era affatto quella notte a Livorno, anche se a lungo è stato così raccontato, ma che invece ha avvolto almeno fino ad ora, con depistaggi, errori e coperture, la ricostruzione della peggiore sciagura della Marina italiana. 140 morti e nessun responsabile. Ora, dopo 25 anni di battaglie e molti nuovi elementi raccolti, una commissione parlamentare inchiesta fa sperare in una rilettura anche giudiziaria dei fatti e di poter finalmente assolvere alla promessa che Loris Rispoli, come tutti gli altri familiari dei 140 morti, avevano fatto. Rivendichiamo il diritto alla verità e alla giustizia. Noi questo anniversario lo faremo con la fiducia rinnovata che si possano dare delle risposte a questa che è stata la più grave tragedia sul lavoro e la più grave tragedia della marineria. E da qui, dal porto di Livorno, scevro da ogni nebbia, parte questa puntata di Storiacce nel disastro del Moby Prince. La nave, la Moby Prince, Moby Prince. Al porto l'atmosfera è surreale. Decine di lampeggianti fendono il fumo denso, l'aria è irrespirabile. Il fumo che sale dalle lamiere e la vernice incenerita non lasciano spazio a illusioni. Se la ritrovano davanti, così la realtà. Eccola lì, c'è poco da dire. Aspettano. E mentre aspettano sentono prima il ministro della Marina Vizzini che parla di fitta nebbia ed errore umano dovuto a eccesso di sicurezza. Che accerteremo la verità senza guardare in faccia a nessuno. Purtroppo l'errore umano sta alla base di questa tragedia. E invece quella risposta frettolosa è stata la gabbia di un mistero ancora insoluto e di una sciagura ancora senza responsabili. Sicuramente il sentimento che ci sta accompagnando un sentimento di fortissima e determinata ricerca della verità. Non stiamo tralasciando e non tralasceremo alcuno dei fatti che ci vengono sottoposti, alcune delle piste che sono state abbandonate, noi le ripercorreremo tutti. E questo elemento sta anche aiutando molte persone a cercarci e a rendersi disponibili a testimoniare cose che anni fa non sono state dette perché non richieste. Voi state ricevendo richieste di persone pronte a consegnarvi materiali oppure i loro ricordi? Di chi stiamo parlando? Di persone sì, che erano... assolutamente, persone che erano o testimoni o a conoscenza poi di fatti successivi, non sono stati ascoltati in quel periodo perché non c'è stata la volontà o la disponibilità ad ascoltarli. Al di là di quanto la retorica di certe istituzioni avvicini le due dichiarazioni, uno spirito forse per la prima volta davvero diverso sembra accompagnare ora la ricostruzione dei fatti successi nel porto di Livorno 25 anni fa. E la novità potrebbe essere proprio nella richiesta di tanti di farsi avanti con la commissione parlamentare d'inchiesta aperta davanti alla montagna di elementi raccolti dai familiari delle vittime e davanti a quelle che lo stesso presidente Silvio Lai, PD, definisce le macroscopiche anomalie. Sono numerose le vicende che sono emerse in quegli anni che non sono stati presi in considerazione, che hanno lasciato dubbi sui quali giustamente ritengo i familiari delle vittime hanno chiesto, prima facendo riaprire l'inchiesta nel 2008 e poi adesso con la commissione d'inchiesta di fare luce. Quali sono i punti su cui la commissione ora sta lavorando? Da una parte la lettura che proviene dagli atti giudiziari, quindi noi abbiamo audito i PM di allora, abbiamo audito persino i magistrati giudicanti. Proprio su questo c'è un passaggio che non posso non rimarcare. Sì. Mi risulta che i giudici all'atere si siano avvalsi della facoltà di non rispondere. Sì, devo dire che è una facoltà che effettivamente loro hanno, ovvero se hanno fatto una sentenza devono limitarsi a rappresentare la sentenza. Noi comunque abbiamo voluto convocarli ugualmente e nel convocarli ugualmente abbiamo chiesto loro di rispondere ad alcune nostre domande, in qualche caso hanno dato le risposte, l'audizione pubblica, in altri casi invece hanno detto su questo noi ci rifacciamo a ciò che c'è nell'udienza. È un elemento di protezione professionale. Certo, è una prerogativa dei giudici opporre il silenzio quando sono ancora operativi soprattutto. Peccato però, perché quando si lavora e affatica nel tentativo di ricostruire le secche in cui si è arenata la verità verità su una sciagura vecchia di 25 anni è così terribile, anche un piccolo dettaglio e una riflessione può aiutare. E allora peccato, di nuovo, perché lo sconforto potrebbe coprire anche la fiducia che ora per la prima volta sembra invece accompagnare la battaglia di chi, come Angelo Chessa, figlio del comandante del Moby Prince, non si rassegna ad una versione di comodo per la sciagura che gli ha cambiato la vita. Ma è la prima volta che è successo in Italia una cosa del genere. La prima domanda che io le faccio è proprio lo spirito con cui vive questo 25esimo anniversario. È la prima volta che abbiamo la speranza che qualcuno voglia vedere le cose in maniera profonda, cioè questa commissione parlamentare d'inchiesta con tutti i poteri che sono uguali a quelli della magistratura può riuscire questa volta a aprire uno squarcio nelle nebbie finte della tragedia del Moby Prince. Forse questa è l'ultima chiamata, l'ultima possibilità per accertare davvero che cosa successe quel 10 aprile del 91? Ah sì, anche perché io sono stanco dopo 25 anni di mettere su uomini e mezzi per cerca di prove tecniche, perché il mio lavoro è stato fondamentalmente quello di cercare sempre prove nuove che ci portino alla ricerca della verità, e ogni anno che passa e ogni anno che rimestiamo negli atti giudiziari troviamo sempre delle cose nuove che ci fanno accaponare la pelle. Purtroppo nel 91 ero un giovane ragazzo, è stato tutto un grande imbroglio, e noi abbiamo trovato delle carte che dimostrano inequivocabilmente che 10 giorni dopo la collisione i periti di parte della petroliera, della SNAM, la Navarma, del traghetto e gli avvocati di parte civile sapevano esattamente che la petroliera era in un luogo di divieto di ancoraggio e hanno taciuto queste carte, non le hanno trasmesse neanche a noi familiari delle vittime, a noi parte civili. Che idea vi siete fatti? Interessi di armatori statali, armatori privati, interessi dello Stato, perché quella sera comunque la rada era in mano a 7 navi militarizzate americane piene di armi provenienti dal Golfo. Quindi ci sono interessi così enormi di vari enti che hanno permesso la copertura nella ricerca della verità e soprattutto hanno permesso la mancanza di soccorso. I nostri cari non sono stati soccorsi dopo essere stati trovati 1 ora e 20 dopo la collisione. A sud si vedono le luci di due pescherecci, mentre in rada ci sono 3 navi ferme all'ancora. La Jeep Napoli, una petroliera, e 2 mercantili americani di ritorno dalla guerra del Golfo, il Gallant 2 e il Cape Breton. Verso il mare aperto poi ce n'è un'altra, la più grande e illuminata di tutte. Per la precisione, la Jeep Abruzzo, arrivata da un giorno esatto, con a bordo 82.000 tonnellate di greggio. Capitaneria di Porto di Livorno, avanti pure, canale 13. Qui la Jeep Abruzzo. Mi sa che c'è un incendio alla Gorgona. No, non è la Gorgona quella lì. E allora cos'è? È scoppiata la petroliera. Siamo incendiati! Siamo incendiati! C'è venuta la nave rosso! Comunque noi siamo carichi di 82.000 tonnellate di crude oil. Tenete presente anche questo. Comandante, lì stanno morendo delle persone! E quelle persone, come scandiscono a teatro Francesco Grandi e Marta Pettinari, moriranno davvero tutte tranne uno, dopo aver cercato invano di scappare, di aprire portelloni come un'impronta nella fuliggine di mostra, dopo aver cercato per ore di salvarsi. E questo ora è il punto più drammatico e cruciale nella rilettura dei fatti da parte della commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Silvio Lai. Il tema della sopravvivenza è l'elemento più angosciante e quello più sensibile sul piano giudiziario, perché le diverse perizie hanno dato dati differenti. Con la nostra nuova perizia pensiamo di poter mettere una parola fine ai dubbi sulla sopravvivenza e temiamo che per molto tempo i passeggeri di quella nave e l'equipaggio di quella nave abbia avuto la percezione di quello che stava avvenendo e fossero in attesa dei soccorsi. Abbastanza tempo per rendersi conto di quello che stava accadendo e quindi anche una morte non dovuta all'impatto, insomma. Se questo venisse provato dalle nuove indagini, significherebbe anche rivedere del tutto quella che era che è stata l'azione dell'equipaggio, quello del Moby Prince, che nella sentenza viene giudicato come sopraffatto dagli eventi, e invece se venisse provata la sopravvivenza lunga da parte delle persone sarebbe stato un equipaggio che dovremmo definire eroico. Che tipo di conseguenze potrebbe concretamente avere? E se venisse comprovata, diciamo, che i soccorsi hanno determinato la morte delle persone, cambierebbe totalmente il quadro probatorio e cambierebbe anche l'effetto giudiziario, e anche superando i limiti del tempo in questo caso. Ovviamente questo va provato e noi siamo impegnati a verificare se le prove che sono ancora disponibili, riviste con le nuove tecnologie, sono in grado di dare questa prova definitiva. Se ci fosse, sarebbe davvero molto grave quello che è avvenuto. Ancora più grave di quello che già sappiamo, una riscrittura di quello che è successo il 10 aprile del 91 a Livorno sul Moby Prince. Se la Commissione parlamentare d'inchiesta rileverà dei fatti che determinano una nuova lettura della situazione, a quel punto saranno magistrati verificare se ci sono, diciamo, delle notizie di reato. Lasciati per ore a morire, lentamente, respirando fumi, vernici, gas. È questa la nuova verità sul Moby Prince che sta emergendo dalla rilettura degli atti dell'inchiesta e che potrebbe consegnare ai posteri un'altra storia, anche giudiziaria, su quanto successo il 10 aprile del 91, su quei 140 morti che aspettano ancora giustizia. E da qui allora ripartiamo nella seconda parte di Storiacce, dai nuovi elementi e da quello che da qui ad un anno potrebbe succedere. Storiacce. Direi che alla fine di questo primo anno di lavoro saremo in grado di dare questa valutazione. Prima è un po' difficile. Sicuramente il sentimento che ci sta accompagnando è un sentimento di fortissima e determinata ricerca della verità. Non stiamo tralasciando e non tralasceremo alcuno dei fatti che ci vengono sottoposti, alcune delle piste che sono state abbandonate, noi le ripercorreremo tutti. Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta rimanda l'appuntamento a fine anno, ma da quello fin qui raccolto sul Moby Prince, Sergio Lai è fiducioso di poter consegnare ai magistrati quanto possa bastare per una rilettura anche giudiziaria dei fatti, per una riscrittura della storia. Una fiducia che contraddistingue questo 25esimo anniversario del Moby Prince, la più grave sciagura del mare italiano. 140 morti nel porto di Livorno e nessun colpevole. Dopo 25 anni di processi lacunosi, di errori, depistaggi e coperture, e dopo una lunga battaglia per dimostrare i buchi rimasti neri della vicenda, ora Loris Rispoli, che quel 10 aprile del 91 perse la sorella, spera di poter finalmente mantenere una promessa e come lui tutti gli altri. Mia sorella aveva 29 anni, era andata a lavorare su quel traghetto perché non trovava lavoro. Io credo che dietro a una tragedia di questo tipo, a una tragedia in cui un traghetto investe una petroliera e dopo diversi minuti l'incendio distrugge la vita umana, porta via la vita a 140 persone, ma non la distrugge velocemente. Noi sappiamo che per ore sono rimasti lì a bruciare in attesa dei soccorsi. Allora ci siamo resi conto fin dall'inizio che dietro a questa tragedia ci potessero essere grandi e gravi responsabilità della Capitaneria di Porto che doveva organizzare i soccorsi, dell'armatore che è responsabile dei suoi marittimi e dei passeggeri, del comandante della petroliera che ha visto benissimo che il traghetto che gli era andato addosso e non ha avvertito nessuno dei soccorritori. Io credo che qui stiano le responsabilità di quella notte e io, come familiare di una delle vittime e di tutte le vittime, perché io quel giuramento l'ho fatto quando ho fatto il riconoscimento di mia sorella davanti a quell'enorme fila di lenzuoli, no, non mi posso arrendere di fronte a un pubblico ministero che chiede l'assoluzione di tutti gli imputati per il destino cinico e baro. Qui non c'è nessun destino cinico e baro. Qui ci sono delle responsabilità che di fronte al paese gridano vendetta. Vogliamo sapere soltanto perché un cittadino può morire senza che nessuno ne sia responsabile. In parte sono già emersi, ma sentiamoli uno dietro l'altro quali sono gli elementi intorno a cui la storia del Moby Prince potrà essere riletta davanti a quelle che definisce macroscopiche anomalie. Gabriele Bardazza ha accettato l'incarico di consulente di parte. Una rilettura attraverso anche l'ausilio di fotografie e video di quelli che sono stati i tempi di sopravvivenza a bordo del traghetto, che è un punto estremamente delicato di questa vicenda e che consentirebbe così anche una valutazione su quella che è stata la macchina dei soccorsi e soprattutto sull'organizzazione della macchina dei soccorsi pubblici che furono posti in essere quella sera. Il secondo punto, una fase esplorativa che riguarda la maggior parte delle informazioni che noi abbiamo di quella sera sono registrate su una bobina, il famoso canale 16 che registrava quella sera in forma sperimentale le comunicazioni, che era una bobina che aveva 12 piste. Noi di questi abbiamo avuto semplicemente la trascrizione di solo due di questi canali. Delle altre 10 noi non sappiamo se è stato registrato qualche altro canale. Ed in ultimo, la collaborazione da parte e dello Stato Maggiore, sia dell'Esercito che dell'Aeronautica Italiana, che eventualmente di altri stati stranieri per avere i tracciati radar, perché è inverosimile che quella sera c'erano navi militarizzate americane, ovvero delle navi che trasportavano materiale bellico di proprietà degli Stati Uniti d'America, che arrivavano dalla fine della prima guerra del Golfo, presso la base di Camp Darby, che sta poco a nord di Livorno, la più grande base operativa che c'è nel Mediterraneo, una base USA NATO, e che è inverosimile che non ci fosse alcun sistema di controllo di quello che avveniva sostanzialmente in mare a distanza di pochi chilometri da questa base USA NATO. Tutto questo perché è ancora inghiottita nella nebbia, che a Livorno non c'era però quella sera quanto successo nel porto il 10 aprile del 91. Una verità che con testardaggine Angelo Chessa continua a cercare, lui che in quel rogo perse il padre, comandante del Moby Prince, e per una fatalità pure la madre. Il comandante della capitaneria di porto, Sergio Albanese, allora 1991, che per stessa ammissione del comando generale delle capitanerie di porto, che era l'ammiraglio francese, che manda un rapporto riservato al ministro della Marina di allora, dicendo che i soccorsi a Livorno quella notte non sono stati organizzati prima delle 6 del mattino, più di 8 ore dopo la collisione. In quelle 8 ore il comandante albanese Cattini di Porto non ha mai detto una parola via radio, perché noi purtroppo per loro abbiamo le registrazioni del canale 16. Questo signore, che ha fatto di tutto per omettere la verità e per non soccorrere i nostri cari, è stato promosso, come al solito in Italia avviene, è diventato ammiraglio, ha fatto una carriera folgorante. Ecco, questo è stato quello che ha fatto la Marina nel 91. Adesso vogliamo vedere, dopo 25 anni, cosa riesce a fare. Lei che cosa vede da questo inizio di lavoro della commissione d'inchiesta? Beh, io vedo una grande buona volontà da parte della commissione d'inchiesta. Adesso siamo nella fase delle audizioni delle persone che sono state coinvolte a pieno titolo durante il primo processo, che è stato quello più importante, ma quello farsa, perché se lei pensa che il presidente del tribunale che ha presieduto il processo è stato condannato in via definitiva per corruzione, non per il Moby Prince ma per 4 villette all'Elba, si immagini cosa è successo per il traghetto. Noi abbiamo un legittimo sospetto che quel processo sia stato falsato, e quando vediamo che i giudici all'atere di quel processo vengono chiamati in audizione in Senato e queste persone si rifiutano di rispondere a tutte le domande dei senatori della commissione d'inchiesta, e allora i dubbi aumentano, viene confermato il nostro sospetto. Di navi e naufragi più o meno drammatici è piena pure la storia antica come quella del mito, ed è per questo che il mare ha sempre fatto paura, come ci racconta Giorgio Geranò, professore all'Università di Trento e autore di saggi sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. I greci antichi non amavano il mare. Erano costretti ad attraversarlo per muoversi tra gli arcipelaghi e le isole che compongono il paesaggio della Grecia, ma in realtà lo odiavano e lo temevano. Per i greci la distesa infinita delle acque, con i suoi riflessi ambigui, il suo moto eterno e misterioso, rappresentava tutto quello che minaccia la stabilità e la sicurezza dell'esperienza umana. Nessuna poesia, nessun mito dei greci celebra la bellezza o la serenità del mare. Tutti cantano il mare come il luogo del pericolo. Dal viaggio degli Argonauti a quello di Ulisse, ogni percorso attraverso le onde è una sfida alla morte. Il mare è il luogo di tutto ciò che è instabile, infido, insondabile. È lo spazio dei prodigi e dei mostri. Le sirene, Scilla, Cariddi sono simboli del mare come territorio minaccioso che si contrappone al mondo civile. Nei miti degli antichi greci il naufragio è sempre in agguato, ma il mito in questo caso rifletteva la realtà. Oggi non avremmo molti dei capolavori dell'arte greca se non li avessimo strappati alle acque, se non li avessimo recuperati nei relitti delle molte navi affondate nel Mediterraneo durante i secoli. Non avremmo i bronzi di Riace, non avremmo l'atleta di Lisippo ripescato al largo di Fano e poi venduto al Getty Museum di Malibu. E fa impressione pensare che tutta questa bellezza sia legata alla morte, ai tanti marinai annegati nelle acque da sempre insidiose del Mediterraneo. In chiusura di questa puntata di Storiacce, fatemi ricordare un amico, un collega che da giovane cronista livornese era salito sul Moby Prince, quasi ancora fumante, come amava raccontare. Troppo presto te ne sei andato, Emiliano Liuzzi, giornalista del Fatto. Ci mancherai. E voi che cosa pensate della vicenda del Moby Prince, che si riuscirà finalmente ad arrivare ad una verità vera? Scriveteci, se vi va, sulla pagina Facebook di Storiacce o sul blog Storiacce. Ci trovate anche su Twitter all'account Raf Calandra. Potete ovviamente anche mandarci messaggi alla 349-238-6666 anche via WhatsApp. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto!